Picchi di frequenza. Storie, viaggi, recensioni. La montagna vissuta a 360 gradi. Benvenuto a tutte e tutti alla puntata 72 di Picchi di Frequenza, una puntata che poggia saldamente su due principi. Il primo, la pedagogia della montagna, che entra in una nuova fase, quella legata ai rischi e alla loro prevenzione durante l'escursionismo. Il secondo, l'intervista a Rita Zandanella, rifugista dell'Alta Val Comelico. Parte prima. Come accennavo in apertura, non abbiamo davvero spazio oggi per le news della settimana, quindi posticipiamo, abbiate qualche giorno di pazienza, perché con Martino Iniziato e Paolo Masala entriamo nel vivo di questa puntata che apre una nuova fase della rubrica di pedagogia. Al nostro Paolo, a cui vanno le nostre congratulazioni per aver conseguito il diploma, poi correggimi se sbaglio, di accompagnatore ai GAE, quindi come dire, sempre più titolato ed esperto per parlare ed accompagnare persone in montagna in maniera intelligente, sostenibile e, come dire, e virtuosa. Ma fatta questa introduzione, andiamo subito da lui per capire di cosa parleremo oggi. Un saluto a tutti e a tutte, ringrazio Dino, l'unica cosa è l'addizione corretta è guida ambientale escursionistica, ma per il resto andava tutto bene. E per tornare a noi, avevamo detto che avremmo affrontato in maniera così diretta e concisa quelle che erano le condizioni di rischio durante un'escursione. Abbiamo fatto un'introduzione generale la settimana scorsa e questa settimana vedremo gli eventi, diciamo così, di carattere meteorologico, mentre la settimana prossima quelli di carattere, diciamo così, animale faunistico. Per quanto riguarda i pericoli legati all'evento meteo, sicuramente quello che maggiormente ci preoccupa è la pioggia, anche se in questi giorni veramente ne avremo un grande bisogno. La pioggia non è pericolosa di per sé, ma sicuramente il nostro organismo durante un'escursione ha una fonte di stress. Ovviamente non possiamo più di tanto prevenirla, non annullando prima o durante la gita, se qualora appunto arrivi uno scroscio d'acqua. In caso di incidente dobbiamo considerare che però un incidente sotto una perturbazione di tipo appunto di pioggia o cose di questo genere sicuramente aumenta anche la condizione di stress per quanto può, per la, diciamo così, per la persona che è in corso in questo incidente. Di sicuramente una delle cose da fare maggiore attenzione quando soprattutto piove è l'aderenza del terreno, perché sicuramente aumenta notevolmente, quindi quello che avevamo visto come elemento di rischio dato dalla frequenza, sicuramente questo è un elemento da tenere estremamente in considerazione, non tanto per quanto riguarda appunto l'acqua che ci piove addosso, che sicuramente potrebbe essere fastidiosa, ma non così preponderante per quanto riguarda la sicurezza della nostra escursione, ma sicuramente diventa estremamente pericolosa per quanto riguarda appunto la consistenza del terreno sul quale stiamo camminando. Un altro elemento appunto sempre da collegare al discorso della pioggia è che sicuramente è importante avere sempre con sé a livello di protezione sicuramente un telo termico, una copertina termica, costano pochi euro in vendita nei negozi di articoli sportivi e questo aiuta sicuramente la protezione, e avere magari sempre nel proprio zaino anche una bevanda calda che sicuramente aiuta. Ricordiamoci che un elemento importante per quanto riguarda la pioggia, e che spesso e volentieri non ci facciamo caso, è che con gli scarponcini bagnati, oltre al disagio di avere i piedi fradici, si allentano i lacci. Questa è una considerazione da tenere veramente a mente, perché è estremamente importante. La pioggia allenta i lacci e non c'è cosa più pericolosa di percorrere un sentiero con lo scarpone slacciato rischiando di farsi veramente male. Mi sembra assolutamente puntuale come indicazione, perché spesso magari un po' superficialmente si dice vabbè, ma fa niente, magari sono in discesa, e direi che sono proprio i momenti in cui ci si fa il danno peggiore, perché non ci si accorge di una vesciche quando ci si accorge, per fare un esempio banalissimo, quando ci si accorge è troppo tardi e poi si fa fatica a camminare, soprattutto se si sta facendo un trekking, o peggio ancora, si prendono storte o si danneggiano gli arti, le caviglie. Quindi, come dire, sono quelle cose che si sottovalutano sempre, ma che poi ti fregano. No, no, quando ci si sente allentare, diciamo così, lo scarpone, non deve essere considerato una situazione di sollievo momentaneo, ma perché qualcosa sta iniziando ad andare male, per cui il piede non deve mai giocare all'interno dello scarponcino, ma deve essere sempre bello fermo. E quindi sicuramente va tenuto conto questo elemento dell'acqua, soprattutto che effetto fa nei confronti delle nostre allacciature. Per quanto riguarda, poi continuando sulla pioggia, sicuramente sembra banale, ma durante un'acquazzone evitare assolutamente il fuori sentiero. La cosa migliore da fare è rimanere sempre e comunque all'interno del sentiero. L'importante è avere sempre all'interno della propria dotazione qualsiasi gita si vada a fare, a prescindere che le condizioni meteo dicano bello o brutto tempo, di avere sempre comunque come standard una mantella, i copri pantaloni e cose di questo genere, perché sicuramente è estremamente importante avere poi anche eventualmente anche indumenti di ricambio qualora si becchi un bel acquazzone. Discorso a parte è sicuramente quello legato ai temporali e ai fulmini, che è un discorso estremamente importante. Allora, qui bisogna considerare che durante un temporale fulmine l'effetto pioggia è in pochissimo tempo decuplicato al cubo. Quindi sicuramente la prima cosa da fare come protezione è spegnere immediatamente i cellulari, quindi smartphone, ma anche iPad, qualsiasi cosa si abbia di elettronico addosso, vanno assolutamente spenti. Riporre all'interno del proprio zaino eventualmente anche i bastoncini telescopici o qualsiasi altre cose che si possono avere anche legati in vita, quindi non so, la macchina fotografica, qualsiasi cosa comunque di ordine sia di metallo che anche di fibre di carbonio, vanno sicuramente tolte e messe all'interno dello zaino. Una domanda da porsi sicuramente importante è se intorno a noi c'è qualcosa di più alto, attraente di noi, diciamo così, per il fulmine, o siamo noi il target, perché questo è estremamente importante. Quindi se siamo soprattutto in un gruppo, il gruppo deve procedere lungo il sentiero in modo serrato ma non troppo fitto, sicuramente bisogna prevedere un luogo, diciamo così, di sosta affinché il temporale passi senza fare troppi danni. Una cosa da fare sicuramente importante, una volta identificato il luogo, è isolarsi dal suolo sedendosi sugli zaini. È estremamente importante avere un elemento di isolamento che non faccia da massa a terra qualora appunto il fulmine scarichi nelle vicinanze. E lo zaino vi assicuro che è già un ottimo isolante da porre. Esatto. Sicuramente estremamente importante è evitare di sostare sotto singole piante, ovviamente, massi isolati, fondamentalmente magari anche appuntiti, quindi delle rocce sporgenti, ma assicuro che invece da prendere estremamente in considerazione rifugiarsi dentro un bosco, soprattutto se è un bosco fitto, perché eventualmente in quel caso i fulmini potrebbero scaricare sulle cime delle piante, ma quindi evitandoci di essere noi appunto il target famoso che dicevamo all'inizio. Cose estremamente importanti sono da evitare le doline, quindi gli avvallamenti, ritrovarsi solo su una cima di una montagna ovviamente è elemento estremamente pericoloso, e se si hanno anche delle conoscenze geologiche comprendere se si è andati su una zona particolarmente ferrosa e cose di questo genere, perché questo sicuramente amplifica l'elemento attrattivo per quanto riguarda i fulmini. Uno dei pericoli correlati soprattutto ai temporali sono gli improvvisi torrenti d'acqua che si vengono a creare sui sentieri, le frane e slavine di ghiaia e fango, quindi sicuramente i temporali sono una delle condizioni peggiori a cui far riferimento durante un'escursione, soprattutto nel periodo estivo. Un altro elemento da prendere in considerazione è la grandine, perché la grandine è estremamente pericolosa, prima di tutto perché può provocare delle lesioni serie, nel senso che sappiamo benissimo quando vengono giù dei chicchi che sembrano delle uova, sicuramente questi non sono così una cosa folcloristica, ma se cadono sulla testa fanno veramente male. La cosa da usare come prima protezione è quella di usare lo zaino come casco, è un piccolo accorgimento, ma ti assicuro che può veramente garantire l'incolumità durante l'escursione. La grandine è anche pericolosa perché ha la capacità di staccare la neve marcia dai costoni e precipita quindi lungo dei colatoi, creando appunto anche delle valanghe con fango e cose di questo genere. Quindi durante un temporale che abbia anche una conformazione di grandine, provare a riparo e lasciare che passi è la cosa sicuramente migliore da fare. Vediamo allora adesso altri elementi particolarmente importanti per quanto riguarda gli eventi meteo, sicuramente la nebbia e le nuvole basse, soprattutto quando si superano determinate quote. Sicuramente la prima cosa da tenere in considerazione è che c'è un calo sensibile della temperatura e quindi se si trova magari con un abbigliamento, diciamo così, estivo, a maniche corte, pantaloncini corti, canotti di questo genere, sicuramente entrare in una zona di nebbia e nuvole basse porta immediatamente a un calo della temperatura. Per quanto riguarda la protezione, è importante conoscere fondamentalmente il sentiero, quindi l'itinerario che si va a fare, bisognerebbe veramente conoscerlo a occhi chiusi, ma qualora si vada per la prima volta a percorrerlo, sicuramente avere in mano della strumentazione, che possono essere dalla più comune cartina e bussola, a eventualmente dei GPS con i quali magari c'è anche una traccia, appunto una traccia GPS che permetta quindi di continuare a progredire anche se le condizioni di vista non sono delle migliori. Se non si hanno queste cose qui, la cosa migliore da fare è non avventurarsi se non si ha la considerazione di procedere nella giusta direzione, fermarsi e aspettare appunto che le nuvole e la nebbia si diradano per poi ricontinuare l'escursione. Un altro elemento estremamente importante è il vento, che spesso e volentieri è estremamente sottovalutato, a volte anche piacevole, soprattutto nelle giornate estive, ma forti controindicazioni, soprattutto quando spira sicuramente in maniera molto forte. Il vento ha una gradazione che va da 0 a 10, diciamo così, e comincia, diciamo così, ad essere situazioni di leggero pericolo quando vengono valutate intorno a grado 5, 6 e superiori. Questo comporta sicuramente diverse situazioni, tra le quali se sei all'interno magari di un bosco, i rami che si staccano e quindi che poi ci cadano addosso e ci facciano male. Soprattutto anche qui c'è un calo sensibile a volte, ma a volte anche estremamente invece percepibile della temperatura corporea, e quindi, come dicevo, sopra un grado di 5-6, che vedi quindi come vento considerato una brezza forte o un fortunale moderato, maneggevole o forte, o addirittura un gran temporale come può essere di grado 10, la cosa da fare è trovare riparo e aspettare anche in questo caso che le condizioni meteorologiche migliorino. Diciamo che per andare a concludere velocemente le ultime due cose che ci riguardano per oggi, abbiamo visto le condizioni meteorologiche di condizioni avverse per quanto riguarda soprattutto le condizioni di freddo, e invece guardiamo quelle che possono succedere soprattutto in giornate come queste, le temperature superano tranquillamente i 30 e 35 gradi, non solo in pianura ma purtroppo, come sappiamo, anche in alta montagna. In particolar modo quindi il colpo di calore. È un evento molto sottovalutato che può portare anche a condizioni di mortalità e spesso e volentieri viene confuso con un semplice colpo di sole. Ha i sintomi uguali, ma il colpo di sole riguarda la scatola cranica ed è meno pericoloso, mentre il colpo di calore riguarda in generale tutto il corpo e quindi ha come segnali, diciamo così, diagnostici una nausea, un forte mal di testa, il polso leggero accelerato, un lieve stato confusionale e spesso addirittura la febbre. Cosa da prevenire è quello di fare sempre delle gite, quindi con la testa, il capo coperto o da un cappello, una bandana, quello che si vuole, e soprattutto di tenere il corpo sempre molto idratato, quindi sempre bere tranquillamente in condizioni di meteo molto calde, almeno ogni 20 minuti fermarsi a bere dell'acqua. Oppure procedere in orari non centrali della giornata, quindi nelle prime ore del mattino o nelle tarde ore del pomeriggio. qualora accada, come protezione bisogna portarsi immediatamente all'ombra al fresco, bagnarsi i polsi e le caviglie anche per immersione, attenzione però a non fare degli shock termici, rinfrescarsi arieggiandosi e una volta abbassata la temperatura ritornare a bere e ritrattare quindi sicuramente molto il corpo. Attenzione anche alle scottature, perché spesso e volentieri le persone, soprattutto inesperte, si avventurano nei sentieri con pantaloncini corti, appunto canotte senza protezioni solari, e non sono solamente delle scottature, ma diventano vere e proprie schioppi, con anche necessità a volte di ricoveri ospedalieri, e quindi durante i trek bisogna tenerne assolutamente in considerazione. Io direi che per quanto riguarda aspetti più macroscopici, quindi fondamentalmente le condizioni meteo avverse da un punto di vista del caldo, io direi che per oggi ci possiamo fermare qui per affrontare la settimana prossima quelle che sono invece le condizioni di rischio nei confronti, diciamo così, degli animali e della fauna che incontriamo durante le nostre escursioni. Direi come sempre completo, utile e piacevolissimo da ascoltare. Speriamo, purtroppo verrebbe da aggiungere, che le nostre indicazioni possano essere utili ai nostri ascoltatori anche in questo periodo dove, appunto, come dicevi tu, questo caldo veramente eccessivo rende davvero le condizioni della montagna particolari, anche se non sembra, no? Il caldo, dice, al di là delle nevi che si sciolgono, può sembrare il contesto ideale per andare in montagna, non è così, e come sempre c'è un aspetto sia di tutela del territorio e del paesaggio, ma anche di sicurezza per gli escursionisti. Grazie Paolo, e appuntamento alla prossima settimana. Alla prossima. Toute ma âme, tout mon bonheur, quand je revois ma petite gare, où chaque train partait joyeux, j'entends encore dans le tintamarre des mots bizarres, des mots d'adieu. Je suis pas poète, mais... Torniamo a parlare di rifugi a picchi di frequenza, e lo facciamo spostandoci un po' fuori dalla nostra regione, e per la precisione andando a parlare con Rita Zandonella, che insieme a Bruno Martini, marito compagno di una vita, gestiscono il rifugio Berti, che si trova in Alta Val Comerico in provincia di Belluno, nel gruppo delle Dolomiti del Popera. Ciao Rita. Ciao, ciao. Tutto bene? Tutto bene, grazie. Siamo in una giornata magnifica, rifugio, bello caldo, un cielo azzurro e, che devo descrivervi, delle montagne fantastiche. E ci fai venire tanta invidia. Vi aspetto, eh. Senti, quindi tu adesso sei arrivata su lì con le tue gambe, ma dicevamo una gestione di una vita, se non erro 40 anni quasi, giusto? Sì, sono 40 anni che siamo su, arrivata praticamente da ragazzina. E come ci sei arrivata? Cosa ti ha portato appunto a gestire un rifugio per quanto vicino ai tuoi luoghi natii, ecco? Io amo dire che sono arrivata alla montagna per un bivio della vita. Cioè, mi sono trovata un giorno a prendere una decisione e ho scelto la decisione più difficile, per cui un bivio stretto su una via tortuosa che mi ha portato proprio in montagna, mi ha portato molto in alto, soprattutto col cuore, per un profondo amore che ho adesso nei confronti della montagna. Mentre Bruno c'è nato, si può dire, Alberti. Sì, beh, Bruno lo definiamo un uomo di montagna, perché lui è nato e vissuto da sempre in questi luoghi, era figlio di una guida alpina e anche lui gestore di un rifugio. Noi lo chiamiamo l'Aquila del Popera perché ha una profonda conoscenza di questi luoghi ed è attento ad ogni mutamento di quello che le accade intorno, soprattutto nel discorso della natura, tutto quello che ci circonda. Sì, anche perché lo ricordiamo, ne abbiamo anche parlato in questa trasmissione, non solo in anni recenti, ma soprattutto in anni recenti, un po' tutte le Dolomiti e anche i gruppi del Popera stanno un po' pagando questi cambiamenti climatici che generano fenomeni atmosferici imprevisti, imprevedibili e straordinari rispetto a quello che eravamo abituati a vedere. E quindi l'osservazione in effetti è fondamentale. Senti Rita, ma in tutti questi anni, tu sei arrivata praticamente ragazzina, oggi sei mamma, com'è cambiato in questi anni la vita tua e in rifugio in generale lassù? Beh, sicuramente la vita è cambiata in questi anni, la vita del rifugio è cambiata la gente che lo frequenta e è cambiata anche la richiesta dei servizi e soprattutto, come anche in città, è cambiata la velocità con cui corre la vita anche qui, per cui spesso chi hai di fronte non ha voglia più di stare a parlare con te, a condividere qualcosa che parla di montagna, no? I primi anni che ero qui, e si parla della fine del 70, agli inizi degli 80, il rifugio era poco frequentato durante il giorno, per cui noi ci alzavamo alla mattina alle 6, facevamo le colazioni e tutti partivano per le ferrate e tu avevi praticamente la giornata e dove stavi, ti godevi un po' il rifugio, avevi il tempo per risistemarlo per la serata, no? E se ti dico che all'epoca addirittura avevamo il tempo per lavare le lenzuola nella tinozza della fontana e dove stavamo poi con le braccia a strizzarle, no? Sembra di parlare veramente di tempi molto lontani. Certo. E i primi ospiti all'epoca arrivavano alle 5 del pomeriggio, per cui tutta la tua giornata era dedicata a sistemare queste cose e noi li guardavamo scendere dal passo della sentinella, dal ghiaione, e potevamo addirittura contarli, e per cui sapevamo già quanta pasta preparare per la cena e non c'era bisogno, appunto, come avviene adesso, di avere tante mail, tante prenotazioni, di avere tutto programmato. Il rifugio si riempiva da solo con la gente che arrivava e passava da un rifugio all'altro. Poi avevamo la cena e per cena una scelta, due primi, due secondi, e il dolce non esisteva. Dopo cena ci si sedeva a tavola con i clienti, facevamo quattro chiacchiere, si faceva il conto. Premetto che noi abbiamo molti turisti tedeschi e i tedeschi è in uso che ognuno praticamente paghi quello che ha consumato. Per cui tu ti sedevi, avevi un pezzo di carta, niente calcolatrice e funzionava la mente. Stavi lì, facevi a ognuno il proprio conto e durante questa attività di fare il conto tu chiacchieravi, per cui ti raccontavano che cosa avevano fatto, che cosa avevano intenzione di fare, qualche volta sapevi anche il loro nome, da dove venivano, era molto molto bello. Alla fine magari un brindisi tutti insieme, un canto, qualche volta un canto degli alpini, qualche volta una cantata in tedesco ed era finita lì. Alle 10 tutti rigorosamente a letto perché non c'era la corrente, qualche candela, però alle 10 buio completo, un rigoroso silenzio perché bisognava riposare, perché certo, il giorno dopo si ripartiva per un'altra escursione. E sto sorridendo perché sembra di parlare di altri tempi. È vero, è vero. Erano tempi molto più semplici, no? Dove esistevano più valori umani e soprattutto esisteva l'amore, il grosso amore per la montagna. Oggi siete un po' più ristoranti, un po' più alberghi, diciamo così. Sì, adesso le cose sono un po' cambiate, i tempi cambiano, non è colpa o merito di nessuno, le cose vanno avanti e si portano dietro il loro lato positivo e il loro lato negativo, chiaramente, no? Certo. Adesso il rifugio si riempie anche tanto di giorno, la gente fa brevi escursioni, magari si ferma, beve qualcosa, si ferma per il pranzo, meno spesso dorme in montagna, che forse è la cosa più bella da fare. E magari tutto si riduce a un fine settimana, no? Diciamo che è più turista e meno alpinista, forse. Esatto, è meno alpinista, esatto. E richiede un servizio diverso, no? Per cui il bar è diventato più grande, la nostra mocca da caffè da 16 tazzine, una mocca enorme, ha lasciato il posto alla macchina del caffè, il menù è diventato più lungo, sono arrivati lavatrice, lavastoviglie, sai, i conti al tavolo si sono sostituiti con la cassa. Certo. E tutti hanno un po' più fretta, no? Per cui si parla molto meno, c'è una condivisione minore, anche perché purtroppo la gente qui non ha voglia di fermarsi, perché la televisione non c'è, il cellulare prende poco e anche il wifi spesso non funziona. Ecco, tu stavi citando adesso proprio un aspetto, quello il wifi e quindi l'aspetto della tecnologia. Mi è capitato diverse volte su da voi, parlando con Bruno, di ridere anche di episodi impensabili in quell'epoca che dicevi tu prima, no? Quasi che oggi ci sia un po' la convinzione che la tecnologia possa permettere tutto, anche di fare cose o andare in luoghi in condizioni o climatiche o di preparazione personale non sempre all'altezza. Per un rifugista tutto questo cosa vuol dire in termini di opportunità, di fastidio magari anche rispetto a una modalità vecchia che c'era di gestire il rifugio, ovvero di necessità? Come è cambiato con la tecnologia da questo punto di vista il rifugio? Sicuramente internet ci dà la possibilità di essere anche lì a contatto con il mondo, e soprattutto di scendere a meno a valle, perché molte cose riusciamo a farle online, per cui questo lo vedo molto positivo, anche perché anche noi andiamo rigorosamente a valle a piedi, certo. E ci facciamo la salita di un'ora magari subito dopo, no? Per cui questo ci ha aiutato tantissimo in tante cose. Però sembra, guarda, impossibile, però quando la gente entra in rifugio la prima domanda è la password del wifi. E questo lascia stupiti il fatto che non siano solo ragazzini, ormai il wifi lo usano un po' tutto, no? E invece secondo me è positivo, però è positivo il fatto di potersi collegare a casa, di poter dire guardate che va tutto bene, guardate che l'escursione è andata bene, è tutto a posto, non tanto per fare altre cose, non so, certo. Vengono in montagna per vedersi un film o per scaricare aggiornamenti di programmi, insomma queste non le vedo priorità in montagna, anche perché rischiamo di creare in montagna la fotocopia di quello che è in città, no? Eh sì, che è un po' proprio l'assurdo, uno scappa da certe abitudini, da certi luoghi e poi in realtà arriva in posti dove avrebbe ben altro da fare, da godere, da far passare il tempo e si riduce ai noi a fare le stesse cose che fa poi in città, cercare gli stessi comfort, le stesse scelte, gli stessi stili di vita, viene da dire. Anche questa puntata della numero 72 in compagnia di Picchi di Frequenza volge al termine. Come di consueto vi ringrazio per essere stati con noi, spero vi sia piaciuta. Vi invito a condividere con la redazione di Picchi idee, critiche, segnalazioni, suggerimenti, proposte di collaborazione e di recensione, anzitutto all'indirizzo mail abo@inventati.org, sul social network azzurro all'account @abuzzo3 o quello blu alla pagina Picchi di Frequenza. Lì e sul sito amonte.info trovate l'archivio completo in streaming e download di tutte le oltre 70 puntate di Picchi e insomma i nostri riferimenti, quel che vi va nel caso non siate tra i fortunati che ci ascoltano ogni venerdì alle ore 20 in punto sulle libere frequenze di Radio Onda d'Urto.